siamo rimasti un po' basiti rispetto a tutto il percorso, no, di revisione di questo regolamento. Ci aspettavamo con questa giunta la possibilità di una vera coprogettazione, quindi di avviare comunque una sorta di contrattazione sulle varie questioni che noi portiamo avanti da anni come rivendicazione, no, per lo sviluppo e la vita dei mercati contadini in città. Questa contrattazione non c'è stata, hanno individuato insomma un regolamento che di fatto aumenta i costi di gestione dei mercati contadini, quindi fissa le aree disponibili, insomma tutta una serie di paletti che invece che incentivarne la nascita in realtà rischiano di minarne l'esistenza stessa. E quindi ci siamo dati appuntamento per mercoledì in Piazza del Nettuno per fare un aperitivo insomma insieme ai coproduttori e ai vari compagni insomma che ci hanno seguito in tutti questi anni di lotta, e per cercare di invitare sindaco, vice sindaco, assessori e consiglieri comunali, insomma, che venissero a parlare finalmente, a dibattere anche pubblicamente su queste cose, perché noi vogliamo capire se per il comune di Bologna, nella food policy che si immagina il comune di Bologna, che ruolo hanno i mercati contadini. Quindi per noi nel nostro modello insomma di produzione, distribuzione, che deve essere alternativo rispetto a quella della grassa distribuzione, quindi della GDO, dell'agricoltura industrializzata, iperspecializzata, che genera tutta una serie di sfruttamenti sia a livello sociale, ambientale, eccetera. Noi vogliamo essere, siamo poi da più di 20 anni una proposta alternativa a quel modello lì, e noi vogliamo capire se oltre alle dichiarazioni di intenti questo comune ha intenzione di fare qualcosa di concreto per sostenere appunto questa filiera, cosa che al momento non ci sembra insomma. A proposito di supermercati che spuntano come funghi, voi dite insomma che in questo regolamento i mercati contadini rimangono a oggetti di mero folklore. Ma sì, perché di fatto al di là della parte del preambolo, la parte iniziale in cui si citano tutta una serie di argomentazioni che noi portiamo avanti da anni in città, quando si passa alle misure concrete, no, di gestione dei mercati, non c'è nessunissimo riferimento a tutti i servizi, quindi accesso alle piazze, anche in ZTL, piuttosto che all'acci elettrici o idrici, insomma i servizi che sono collaterali, no, all'esistenza di un mercato come comunque posto dove si pratica una socialità, un'economia di relazione che è diversa chiaramente da una qualsiasi altra attività commerciale. Ecco, questo riconoscimento non c'è, piuttosto anzi si parla sì della possibilità di somministrare, di mettere giù dei tavoli, però come se fosse un deor di un qualsiasi attività deve pagare occupazione di suolo pubblico. In questi casi è una contraddizione in termini, per cui di fatto concretamente l'esistenza dei mercati contadini in città è in pericolo. Tu citavi prima la food policy, che poi le cui linee diciamo vincoleranno anche i bandi, no, per l'assegnazione dei mercati. Voi l'avete definita fico style. Nel senso che al momento ancora non c'è la food policy, perché è tutto un percorso appena iniziato, quindi ancora in sviluppo, e nonostante non sia ancora definita, viene inserita sia all'interno del regolamento che all'interno del bando. Quindi già il fatto di chiederci, no, di attenerci a una food policy che di fatto non c'è, già questo è una, ci mette in una posizione sicuramente molto difficile. In più, leggendo le prime bozze che stanno girando su quello che dovrà essere questo documento, in effetti sì, perché si parla di DOP, IGP, insomma tutte quelle gli strumenti che in realtà l'agroindustria usa e si fa sovvenzionare dal pubblico per mantenere la sua posizione predominante all'interno del mercato. Quindi non si parla assolutamente di mercati contadini, non sono nemmeno citati, come non si parla nemmeno di sovranità alimentare. Nel concreto mercoledì cosa succederà? Noi saremo sì in Piazza del Nettuno dalle 10.30 alle 12.30, alle 11.30 ci sarà la conferenza stampa e dopo un gran aperitivo contadino, sociale, condiviso, dove sono tutti invitati a partecipare, a discutere, dibattere di questo che è un argomento che coinvolge sì le realtà contadine del territorio, ma soprattutto i cittadini bolognesi che vogliono poter praticare un tipo di consumo critico all'interno della propria città.